E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, buona domenica, questa è l'edizione speciale del Dopo Notte dei Leoni, fra poco tutti gli approfondimenti sul palmarès veneziano, prima però i contenuti della nostra puntata nei titoli di testa. Cala il sipario sulla 70ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo 10 giorni di film, red carpet, star e polemiche, bilanci e notizie dal Lido negli ultimi collegamenti coi nostri inviati. E dalla Laguna arrivano nelle sale italiane i primi due film. L'Intrepido di Gianni Amelio, che ha avuto una controversa accoglienza al Lido, e Mebius, il film scandalo della mostra firmato dal Leone d'Oro dello scorso anno, Kim Ki-duk. Nelle sale anche la prima ondata, ancora debole, di film della nuova stagione. Supercast per Comic Movie, commedia demenziale e collettiva con Gerard Butler, Hugh Jackman, Richard Gere, Uma Thurman e tanti altri ancora. Proposta d'autore invece per Colin Firth, che al fianco di Emily Blunt è il protagonista di Il mondo di Arthur Newman, storia di un uomo che cambia identità per provare a vivere la sua vera vita. Il Leone d'Oro per il miglior film va a Sacro Gra di Gianfranco Rocchi. E così ieri sera Bernardo Bertolucci ha annunciato il Leone d'Oro della 70ª mostra del cinema di Venezia. Sacro Gra di Gianfranco Rosi, era il primo anno in cui i documentari venivano ammessi in concorso a Venezia, ce n'era anche un altro, quello su Donald Rumsfeld di Errol Morris, e proprio da un presidente di giuria italiano, Bertolucci, è stato premiato un documentario italiano con il Leone d'Oro alla prima partecipazione. Insomma, in qualche modo questa 70ª mostra ha voluto e saputo diventare storica, perché diventa un punto di svolta non solo la presenza del documentario per sottolinearne la vitalità in concorso, ma anche il premio, il maggior premio, il Leone d'Oro a Sacro Gra. Storia e storie di personaggi raccolti attorno al raccordo anulare, al grande raccordo anulare di Roma. Un documentario bellissimo, anche molto godibile, molto fruibile a livello del pubblico, che tira fuori personaggi davvero interessanti. Noi sentiamo qual è stata la dedica speciale che ha voluto fare il regista Gianfranco Rosi. Voglio ringraziare anche la mia ex moglie, che mi ha costretto letteralmente ad accettare questo film. Io volevo lasciare Roma, volevo partire da Roma, e mi ha costretto a fare questo film e a iniziare. Forse ho iniziato anche ad amare Roma attraverso il raccordo anulare, che è un po' una contraddizione, però così è successo. Ed è proprio quello che è successo. Ne parlavamo a Venezia con Gianfranco Rosi, era già contento di esserci, figuriamoci adesso del Leone d'Oro, e parlavamo proprio di questa umanità che si va a raccontare attorno al grande raccordo anulare, un'umanità che forse 50-60 anni fa avremmo trovato dentro i centri delle città e che oggi invece è esplosa, come è esplosa la società ai margini, ma è che è rimasta un'umanità tutta da raccontare. E allora noi andiamo un po' a raccogliere, a carpire i pezzi, brandelli di questi incredibili personaggi che Rosi ha messo sullo schermo, dal nobile decaduto a quello arricchito, dalle prostitute anziane alla palmologo, l'esperto di palme che cura le palme con una meticolosità incredibile. Allora sentiamoli nel trailer di Sacro Gra. Posso lavorare domani? Sì. Domani penso, no, magari un po' di riposo, mica ti fa male. Un po' di riposo? Che cazzo mi devi sentire? Vieni da me. I regali, i soldi. Presenza di rumori. Squittii di larve e rumori di adulti. Intervenire immediatamente. Sì, sì, ci abbiamo un salone grande, sì. Facciamo bed and breakfast. Sì. E facciamo bed and breakfast. Ogni volta mi spavento. Ti dirò, te l'ho annusata talmente tanto che probabilmente qualcosa ha perso, sì. Probabile. È proprio una stupidaggine idea. Però a noi che siamo una vita dentro l'acqua, non ci interpellano mai, non importa mai nessuno. Vero, Le? Che dici, Le? Va bene così. Ma andiamo avanti, che ce lo dico. Sacro Gradi, Gianfranco Rosi, Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Gli altri premi importanti, le Coppe Volpi, interpretazione femminile, Elena Cotta per il film Via Castellana Bandiera di Emma Dante. Miglior attore, Themis Panou di Miss Violence, il film greco che fino agli ultimi momenti è rimasto in lizza per il Leone d'Oro, tanto che ha preso anche Leone d'Argento per la regia al suo regista, appunto Alexandros Avranas. E poi premio speciale della giuria di Frauder Polizisten di Philip Gröning, miglior sceneggiatura Filomena di Steven Frears, gran premio della giuria Tsai Ming-liang per quello che ha detto essere il suo film d'addio, il film Stray Dogs. È con noi in collegamento Boris Sollazzo, che saluto. Boris, allora è finita la notte dei leoni, comincia il giorno delle riflessioni su questo palmarès. Grande felicità per una vittoria del Leone d'Oro dell'Italia, per questo documentario, per la vitalità di un genere cinematografico che negli ultimi anni ha saputo imporsi all'attenzione dei festival e chissà, forse anche in maniera maggiore, crescente anche del pubblico. Qualcuno però potrebbe anche dire, insomma, un grande italiano come Bernardo Bertolucci che premia come Leone d'Oro un documentario italiano, come miglior attrice un'attrice italiana in un film italiano, non è che c'è un po' troppa Italia rispetto a quelli che sono i pesi e gli equilibri che si sono visti in questa edizione della mostra? Beh, intanto diciamo una cosa, che se accettiamo che Quentin Tarantino, ex compagna di Sofia Coppola, gli dia il Leone d'Oro, possiamo anche accettare che Bernardo Bertolucci e Gianfranco Rosi, che non si conoscono ma hanno la colpa di avere lo stesso passaporto, possono premiarsi tra loro, o meglio Bernardo Bertolucci premia Gianfranco Rosi. Adesso, al di là di questo, che chiaramente è una provocazione, a Cannes è successo spesso che attrici feticcio premiassero i loro registi, che quindi insomma vedi appunto il premio Haneke, sì, forse sì, forse c'è questo, anche alla luce del fatto che Bernardo Bertolucci quest'anno a Cannes ci ha confessato che quando fece il presidente di giuria e fece vincere Godard, lui aveva deciso dal giorno stesso in cui aveva messo piede a Venezia che Godard, che fino a quel momento non era mai stato premiato in un grande festival, avrebbe avuto il Leone d'Oro. Il che ci fa pensare che il grande cineasta, oltre ad essere uno che ha sfornato tanti capolavori, non sia uno facilmente che venga facilmente persuaso dagli altri giurati, cioè un presidente forte, a differenza di tanti altri che ci sono stati a Venezia. C'è il premio a Elena Cotta per la Coppa Volpi, e anche se è stata straordinaria nel film di Emma Dante, forse con tante grandi interpretazioni femminili è quello che convince di meno, non per il valore dell'interpretazione straordinaria, ripeto, ma forse perché si poteva politicamente, come dicevi tu, portare altrove lo scacchiere. C'è da dire però che secondo me hanno vinto i due film migliori, cioè c'erano Miss Violence e Sacro Graal, che secondo me si erano stagliati un passo sopra tutti gli altri, e forse sì, Bernardo Bertolucci, anche per una situazione difficile del cinema italiano, lui viene da un film indipendente, Sacro Graal è il film più indipendente di tutti, forse avrà appoggiato sull'acceleratore, ma forse il cinema italiano quest'anno serviva quello che gli è stato negato in tante altre occasioni, penso all'ingiusta sconfitta di Bellocchio anni fa, o a quella di Crialese anni fa, insomma ci siamo ripresi quello che forse in qualche modo c'era stato tolto in altre occasioni. L'ultima considerazione da fare è che il documentario è l'unico genere cinematografico in questo momento in Italia che è in salute, laddove il cinema di finzione produce film in doppia cifra, il documentario va ben oltre la tripla cifra, è in salute sia a livello creativo sia a livello tra virgolette industriale, anche perché costa meno, e questo è un segnale ulteriore. A mio parere, guarda caso, appena arriva comunque ha un grande successo. Si è parlato anche del provocatorio premio che si voleva dare a Donna Rumsfeld, la Coppa Volpi, per l'altro documentario in concorso. Insomma, il modo di raccontare del documentario in qualche modo sta cambiando il cinema, e che sia Venezia ad accorgersene per prima non dispiace, anche se ricordiamo Moore era stato già diversi anni fa premiato a Cannes. Quindi sì, La risposta alla tua domanda è: l'Italia probabilmente ha esagerato, ma forse era questo l'anno in cui esagerare. Parliamo dei film che dalla Laguna, dal Lido di Venezia, arrivano nelle sale cinematografiche italiane. Cominciamo così la gita attorno a questi 10 circa film che arrivano in distribuzione, nuovi, che arrivano nelle sale italiane. Quelli di Venezia sono due, sono L'Intrepido di Gianni Amelio e sono Moebius di Kinky Duke, vincitore proprio lo scorso anno con Pietà del Leone d'Oro. Partiamo dall'Intrepido, partiamo da Gianni Amelio, sicuramente uno dei film più attesi di questo inizio di stagione, quando scende in campo un peso massimo del nostro cinema come Gianni Amelio. È chiaro aspettarsi molto. Il film a Venezia ha avuto critiche abbastanza discordanti, un esito controverso. Noi adesso ne parliamo, come sempre facciamo La Rosa Purpurea, facendoci aiutare anche dai suoni originali del film. La storia, interpretata da Antonio Albanese come protagonista assoluto e poi nel cast anche alcuni giovani attori, Lieve Rossi, Alfonso Sant'Agata, Gabriele Rendina, fanno parte di questo cast variegato. C'è anche un poco più un cameo da parte di Sandra Ceccarelli. Insomma, è difficilmente catalogabile all'interno di un genere. Si potrebbe dire commedia surreale, si potrebbe dire dramma agrodolce, c'è dentro un po' di tutto. Certo è la storia di un uomo di poco meno di 50 anni, padre di famiglia, un figlio, una moglie che lo ha lasciato molto tempo prima e che per cercare di sbarcare il lunario dignitosamente nella Milano di oggi fa il rimpiazzo, cioè lui entra in gioco a sostituire lavoratori che fanno i lavori più disparati. Lo vediamo nelle vesti più varie, che vanno dal portatore di pizze al muratore, dal negoziante di scarpe al tranviere, e Antonio Pane, questo è il suo nome e cognome, il cognome come quello che cerca di guadagnarsi tutti i giorni, è appunto un rimpiazzo. Sei moldavo? Romeno? Te sei tunisino, te la faccio da tunisino. Mi scusa, ma tu l'hai che arrivo al capolinea? Suminga, Shura, mi dispiace. Io c'ando la prossima. Quando capita, io prendo il posto di uno che non può lavorare, perché magari sta facendo un'altra cosa, e io lavoro al posto suo. Quanti rimpiazzi riesce a fare? Quanti rimpiazzi riesce a fare? Tanti nel film, in questo film L'Intrepido, che riprende anche il titolo, lo ricorderete, soprattutto quelli che non sono più giovanissimi, di una rivista di fumetti e varietà degli anni 60 e 70. E allora, Antonio Pane lavora in questo modo con grande dignità. Per lui la dignità è la cosa che conta più in assoluto, più dei soldi, più di tutto. Conta avere la schiena dritta e poter dire di aver fatto qualcosa per portare avanti la propria famiglia. Ma la sua vita è piena di vuoti, scusate la contraddizione in termini, perché appunto manca una moglie, il figlio studia sassofono al conservatorio, gli vuole un gran bene ma lo vede praticamente 10 minuti a sera sfatto dalla stanchezza. Un giorno nella vita di Antonio, durante un concorso, Antonio, un altro dei suoi atti di grande solidarietà, decide praticamente di non provare neanche a vincere il concorso e aiuta invece una ragazza, conosce la giovane Lucia, una giovane donna con la quale nasce qualcosa che solo la distanza di età forse impedisce di far sfociare in amore. Tu hai presente quei pugili che si beccano qualche anno di galera? Sai qual è la prima cosa che chiedono in carcere? Attrezzi da palestra per mantenersi in forma. Cioè loro sanno che quando escono sono pronti a combattere. In campo sono invecchiati. Io però non sono un pugile. Tu sei pazzo. E allora, siamo in collegamento con Boris Sollazzo. Ciao Boris e ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Dicevamo dell'Intrepido di Gianni Amelio, film che è stato accolto in maniera piuttosto contrastata a Venezia. Abbiamo sentito prima nel nostro Toto Leone, c'è chi addirittura lo vorrebbe Leone d'Oro, ma ci sono stati anche molti fischi, molti bu. C'è stato chi comunque, anche senza esprimere le cose in maniera virulenta, ha denunciato una certa delusione delusione, una certa scontentezza rispetto all'esito finale di questo film, che è un film che ha probabilmente delle ottime intenzioni, quelle di raccontare un uomo buono e un uomo dignitoso, era forse il vero obiettivo di Gianni Amelio, però ha anche molte lacune, forse soprattutto in una sceneggiatura che accumula troppi livelli di lettura, che diventano troppi livelli di tono, di ricerca di tono del film. È un film che non riesce a trovare fino in fondo un tono preciso e che chiaramente finisce per far sgonfiare un pochino anche il pathos che si crea con lo spettatore in sala. Sono assolutamente d'accordo, diciamo per completezza di informazione che le due proiezioni per la stampa a Venezia sono state, diciamo, funestate da fischi, contrastate da pochi applausi, mentre la proiezione per il pubblico è stata accolta con reazione entusiasta, quindi per giustizia le raccontiamo tutte e tre. Detto questo, hai proprio ragione tu, nel senso che quella ci troviamo di fronte a una sceneggiatura scritta coscritta almeno dallo stesso Gianni Amelio, che mette troppi modelli uno sopra l'altro pur facendo rimanere il film e soprattutto il personaggio di Antonio Albanese totalmente bidimensionale. Noi abbiamo un po' di Candide, un po' di Chaplin, c'è addirittura una scena a doppia velocità che richiama chiaramente quella di Tempi Moderni, c'è un po' di Jean Valjean di Victor Hugo, c'è persino il Monsieur Mersenne di Pennac in questo ruolo di sorta di capro espiatorio totale di una società che non sa perdonare chi non ha una mentalità vincente, non sa perdonare i buoni, non sa perdonare questa sorta di Stakhanov instancabile e dolcemente disperato. Poteva essere un'idea meravigliosa, perché a sentirlo così un personaggio te ne innamori immediatamente, però ci ritroviamo di fronte a una serie di quadri, uno appiccicato all'altro, in cui si cerca più lo sketch che realmente il film completo, e secondo me denuncia una povertà di ispirazione, non di interesse verso belle idee, ma di ispirazione che Amelio ha almeno da una quindicina d'anni, proprio dall'ultimo Leone d'Oro del 1998, in cui si ridevano. Io sono un fan, un ammiratore sfegatato dell'Amelio, che va dal Colpire al cuore dell'82 fino appunto a Così ridevano. E poi è successo qualcosa, non capiamo cosa, e temo che l'Intrepido, oltre ad essere stata uno dei film più brutti che abbiamo visto a Venezia, è di sicuro il peggiore della sua cinematografia, e questo dispiace, sembra essersene accorto anche il pubblico, che in questi due giorni non l'ha premiato come avrebbe pensato sia il distributore che il regista stesso. Purtroppo alla fine mi viene da dare ragione a chi parla di delusione piuttosto che a chi parla di nuovo ritorno di Gianni Amelio. E tra l'altro un disagio che io ho avvertito anche analizzando la figura proprio del protagonista, di Antonio Albanese. Antonio Albanese mi veniva in mente guardandolo, perché certi temi di fondo sono gli stessi, all'Antonio Albanese di Giorni e Nuvole di Soldini. Ecco, se lì la cifra di Soldini era ovviamente drammatica, senza se, senza ma, lì però c'era da parte di Albanese veramente un'esplosione del personaggio. Qui questo ondeggiare di toni ricercati, secondo me, finisce per inghiottire anche il bravo attore lombardo. Sono assolutamente d'accordo, quello era un personaggio secondo me molto più profondo, un Soldini molto più lucido nel raccontare la società. Amelio sembra denunciare una visione quasi favolistica dell'attuale società, racconta un dramma come quello della precarietà, tra l'altro in età matura, proprio come in Giorni e Nuvole, ma lo fa poi uscendo da quella società e raccontando una favola. Per carità, è vero che il film si chiama L'Intrepido e quindi denuncia fin da subito l'intenzione di essere più fumetto che film, però forse le due cose in questo momento storico anche era difficile conciliarle con una poetica e un'estetica come quella che ha portato lui, e mi sembra che tra i due registi di sicuro Soldini in Cosa voglio di più e Giorni e Nuvole con lo stesso Albanese abbia capito molto di più come raccontarlo questo mondo attuale. E allora abbiamo parlato dell'Intrepido di Gianni Amelio nei cinema italiani, cominciamo a giocare insieme, cominciamo ad ascoltare le tre tracce misteriose del film che oggi dovete indovinare per provare a vincerne l'edizione in Blu-ray. Sentiamo la prima. Come mai tanto vinile? Non capisci come funziona un iPod? Migliore suono. Ah, sei un purista, eh? La Rosa Purpurea @radio24.it è come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica per dirci di che film si tratta con il vostro indirizzo di posta per ricevere, eventualmente siate i primi a indovinare il sabato e la domenica, il Blu-ray di questo film. Più tardi avremo altre due tracce. Le note della colonna sonora di Moebius, il film di Kinky Duck. Anche questo film arriva nelle sale italiane, in una decina di sale italiane delle città più importanti, distribuito appunto per l'Italia da Movies Inspired. Perché? Perché chiaramente Kinky Duck è un grande autore, ha vinto lo scorso anno il Leone d'Oro con Pietà, quest'anno era di diritto, mi viene a dire, a difendere il suo Leone d'Oro in concorso con questo film, che racconta una storia davvero molto molto scioccante, molto fisica, come tutto il film, tutto il cinema di Kinky Duck, la storia di una mamma che evira il figlio, ma voleva evirare il marito traditore, scatenando una reazione a catena che porta il padre a un certo punto a tentare di restituire una sessualità al figlio evirato, facendosi trapiantare il proprio pene nel corpo del figlio. Insomma, una roba veramente per fegati molto molto forti. Il cinema di Kinky Duck è così, in questo caso però con la chiave del grottesco, farsesco e anche senza dialoghi, Boris. Beh, Kinky Duck secondo me fa impallidire il buon Lars von Trier, insomma, ormai come sensazionalismo. È bastato che tu leggessi la trama perché Antichrist potesse sembrare Biancaneve di sette nani. Adesso fuori dagli scherzi e fuori dalle ossessioni sessual familiari di entrambi, Kinky Duck, che torna fuori concorso a godersi insomma l'essere il Leone d'Oro in carica, evidentemente denuncia con Moebius un cambiamento totale rispetto al passato. Quando portò Ari Lang a Cannes ci fece capire Kinky Duck che sarebbe tornato come regista, ma che sarebbe tornato in maniera completamente diversa, ed è tornato diventando di fatto Lars von Trier dell'Estremo Oriente, a volte con intuizioni straordinarie di regia e di sceneggiatura, altre cercando il sensazionalismo spicciolo, la volontà di prendere a pugni in faccia il pubblico e la critica, divertendosi forse anche un po' alle loro spalle. Questo film ne è un po' la dimostrazione. Lui fa un film sostanzialmente muto in cui assistiamo a due evirazioni violente, una medica e infine anche a una rivoltellata lì dove non batte il sole, e già così insomma potrebbe venire facile una battuta sulla qualità del film. Ci sono dei momenti, perché Kinky Duck per me rimane un genio, Kinky Duck ha delle intuizioni straordinarie soprattutto a livello visivo, e a volte ha un'ironia che in un certo cinema è difficile rintracciare. Qua però si innamora troppo di un soggetto che chiaramente avrebbe sconvolto, avrebbe scandalizzato, e non sa in alcuna maniera rendere Moebius un film vero. Anche in questo caso ci ritroviamo in una serie di sketch più o meno riusciti, dal sasso che provoca piacere alla folle virazione di un ragazzo colpevole di violenza, con tanto di inseguimento sulla strada, che ovviamente fanno sembrare più una parodia il film che un grande capolavoro. Ammetto che anche in questo caso la delusione è tanta, e mi sembra questa la prova peggiore del nuovo Kinky Duck e forse anche in generale. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, terza parte, ancora cinema, ancora nuovo cinema nelle sale cinematografiche. Noi cominciamo da Comic Movie. Può un film essere di Steven Brill, Steve Carr, Griffin Dunn, Peter Farrelly, eccetera, eccetera, eccetera? Può avere una decina di registi e tipo una trentina di grandi attori, fra i quali si annoverano gente come Hugh Jackman, Naomi Watts, Gerald Butler, Kate Winslet, Uma Thurman. Insomma, un film davvero collettivo, questo Comic Movie, che mette insieme, mixa due climi cinematografici, quello del demenziale americano, un clima classico, un genere che ha fatto veramente ridere, tanto ridere, soprattutto negli anni passati, alla fine degli anni 90, a cavallo con gli anni 2000, e il film collettivo, il film fatto di piccoli momenti diretti da diversi registi e interpretati da altrettanto diversi attori. Il trailer, diciamo, il filo rosso che lo tiene insieme è quello di un ragazzo che cerca di vendicarsi di un pesce d'aprile ricevuto, due adolescenti, riempiendo di virus il computer del ragazzino che ha osato tanto, e da lì all'inseguimento di una serie di film bannati sulla rete, a trovare appunto questi 13 piccole tracce di comic movie. Sentiamone una clip e poi ne parliamo insieme con Boris Sollazzo. Volevo chiederti una cosa. Io voglio chiederti una cosa. Mi faresti addosso? Come che hai... Vorrei che tu fossi il primo. Hanno scelto l'istruzione domiciliare. Per noi è importante che nostro figlio viva in modo realistico e avvolgente gli anni delle superiori. Ti sono caduti i libri, faccia da culo? Sorpresa! Ho catturato un folletto. Ora chi è che fa le magie? Ma che fai? Sfrutta l'altezza! Dai, babe. È un lettore musicale ad alta fedeltà. I ragazzi infilano sapete il loro... Sapete cosa? Nel lavaggiporta. La ventola, poi shakerà il loro... Beh, sapete cosa? L'abbiamo testato a lungo. Qualcosa da dire? Ah... Boris, comic movie, come tutte le pellicole a più mani, e qui ce ne sono davvero diverse di mani, ci sono episodi riusciti meglio, altri peggio, però insomma si rivitalizza un genere, come dicevo, quello della commedia demenziale americana, che aveva fatto tanto bene, diciamo, a cavallo della fine del secolo. Beh, io confesso che forse si è rianimata leggermente questo genere, un genere che forse dovremmo percorrere anche noi, la voglia di mettersi insieme da parte di autori, attori, divertirsi e cercare non solo di fare il grande capolavoro che dura due ore, ma magari una serie di episodi riusciti. Devo dire che Comic Movie ci riesce davvero solo a sprazzi, e la delusione aumenta nel momento in cui pensi che sei di fronte a una squadra che al calciomercato ha potuto comprare chiunque e poi nella realtà del campo non riesce a fare tre passaggi uno presso l'altro, e questo è un po' quello che succede in comic movie. Sì, scorgi magari Holberry e Elizabeth Banks che trovano una vena comica che fino a quel momento non gli avevi conosciuto e riconosciuto, però sono davvero momenti che mi ricorda, per fare un paragone italiano, i nuovi mostri. Che non era tutto da buttare, ma che sicuramente aveva grossi problemi. Non so se il problema nasca dalla difficoltà di amalgamare comunque quei registri e renderli più fruibili nel momento in cui ti ritrovi a doverli mettere uno in fila all'altro, o all'effettiva poca qualità di alcuni episodi che sono davvero tra il trash e il noioso. Quindi bene, ben venga il fatto che tanti grandi attori e tanti grandi autori puntino su questo genere, ma bisogna farlo assolutamente meglio. E allora, questo per quanto riguarda comic movie. Noi adesso ci prendiamo un altro momento per giocare insieme con la seconda traccia del game. Anche se l'aspetto è umano, loro non lo sono, non pensano, non sanguinano. Anche se fossero vostra madre o il vostro migliore amico, voi non potete aiutarli. Sono insensibili, indifferenti, incapaci di provare rimorso. Di che film si tratta? Ditecelo con una mail a larosapurpure@radio24.it. Provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica, per i più preparati fra i nostri ascoltatori che risponderanno per primi. Più tardi faremo ascoltare l'ultima traccia di oggi. Andiamo avanti con le novità, andiamo avanti perché c'è Vin Diesel che torna sugli schermi. Abbiamo detto, facciamo assaggiare i due film che probabilmente hanno qualche possibilità in più al botteghino in questo weekend, di tanta quantità ma di poca sicurezza per quanto riguarda poi la capacità di scalzare le vette delle classifiche. E allora dicevo, però sicuramente uno dei film che esce in forze per quanto riguarda anche il numero di copie distribuite, quasi 300 in tutta Italia è appunto Riddick. Non è il primo, anzi è il terzo episodio in cui troviamo questo Richard Riddick ricercato solo contro tutti, prima in Pitch Black e poi nelle cronache di Riddick. Questa volta sentiamo come vanno le cose nel trailer. Molte volte il mio nome è stato cancellato dall'elenco e mi hanno dato per morto. Quindi, niente di nuovo. Riddick! Ti taglierò la testa e la metterò qui dentro! Quell'uomo vede al buio. Non abbassate la guardia. Sei venuto fin qui solo per vedermi. Tu mi lusinghi. Prendetelo! Quando mi toglierete le catene, sarai morto entro 5 secondi. Anche da questo trailer capiamo qual è l'universo al quale riferisce questo Riddick. L'universo, e ci dice molto anche della ricerca da parte delle distribuzioni e delle produzioni di un pubblico che è quello dei quattordicenni, che è quello dell'età adolescenziale, magari anche farcita di passione per i videogame. Lo vediamo da tanti elementi di questo Riddick. Boris, Riddick fino adesso, dicevamo, ha vissuto in due film, uno che respirava un po' più il clima del cinema indipendente, il secondo invece che era pieno di cliché di cinema globalizzato. Questo terzo dove si colloca? Io, sia chiaro, sono un fan di Riddick. Ricordo di aver incontrato Vin Diesel e di avergli chiesto con forza di tornare a fare questo personaggio, e adesso francamente me ne pento, perché sia nel capitolo che aveva quel sapore indipendente che raccontavi e che secondo me è il più riuscito, sia in quello in cui i cliché dei blockbuster venivano rapinati a mani basse, c'era un'unità di racconto e una capacità di spingere questo personaggio sopra le righe, questa sorta di Schwarzenegger moderno, di Rambo solitario e perseguitato. Si riusciva però a divertirsi, a intrattenersi. Sono quei classici film di azione, quei film di genere che magari da critico puoi anche storcere il naso su alcune cose, ma la verità è che non vedi mai l'orologio, che ti diverti e che esci rinfrancato dal cinema. L'intrattenimento è anche questo, ed il cinema è anche intrattenimento. In questo caso sembra invece di aver fatto l'errore che normalmente Vin Diesel non fa nei suoi franchise, cioè quello di essere tornato più per una volontà delle major e di costruire un incasso a tavolino di una certa fattura, che perché ci credeva, o se ci credeva è francamente incredibile, perché ci ritroviamo in uno scenario da 10.000 avanti Cristo in cui lui sostanzialmente in questo pianeta che è regredito allo stato preistorico è in balia, mezzo morto, è in balia di ogni pericolo, sia di chi lo vuole uccidere sia di animali improbabili che lui riesce puntualmente, anche con una gamba rotta in più punti, con una frattura scomposta, a contrastare. Per carità, fa ridere e in qualche modo si è affezionati a quel gradasso ipermuscoloso. Pensiamo all'ultima frase del trailer: sarai morto entro 5 secondi, è una frase da Kenshiro, per chi lo ricorda, il cartone animato, e i fan sono tanti. Però qua secondo me si esagera davvero tanto, e a differenza dei tanti film che hanno reso Vin Diesel una sorta di icona dell'action dei tempi moderni, secondo me c'è minor cura nella fattura del prodotto, minor cura nella regia, e quindi c'è anche una sciatteria che nei suoi film uno non accetta. Quindi devo dire che da fan di Riddick, da fan spertiato di Riddick, anche questa devo ammettere che è stata una grande delusione. Insomma, una settimana davvero di fili riusciti a metà, questa. Tanta, ma l'abbiamo detto, tanta quantità, però non mi sembra di vedere in questo weekend la forza necessaria, come dire, a scalare a suona anche di presa del pubblico proprio. Le classifiche, che non sono ovviamente un valore in sé, ma sono l'indicatore di qualcosa che è riuscito comunque a rompere gli schemi, ad arrivare a un pubblico molto molto alto e molto ampio. Chi lo sa, vedremo un po' se le cose andranno meglio. Abbiamo un minuto, Boris. Io però voglio buttare dentro una proposta d'autore in questa nostra chiacchierata di oggi, perché sennò sembra che arrivano solo franchise film veneziani. Abbiamo chiaramente proposte d'autore, come ne abbiamo parlato all'inizio con i film che arrivano da Venezia, però c'è anche questa, quest'altro film, secondo me, riuscito a metà, e così stiamo anche in tema, che è Il mondo di Arthur Newman, interpretato da Colin Firth e da Emily Blunt. C'erano sicuramente le forze per un film interessante. Dirige Dante Ariola, la storia di un uomo in crisi di mezza età, con un figlio che manco vuole vederlo, una fidanzata di cui lui francamente farebbe volentieri a meno, di un lavoro che non riesce a sposare le sue passioni. A un certo punto quest'uomo cambia identità, brucia tutto, carta d'identità, fa sparire le sue tracce, rinasce francamente con un altro nome, con un'altra vita, forse veramente la sua. Anche qua, Boris, c'erano sicuramente le tracce per un lavoro interessante. Non che Colin Firth chiaramente reciti male o che, ma mi sembra che in questo film manchi alla fine un po' di mordente, cioè manchi un po' di quel pathos, di quella tensione che ti aiuta ad arrivare alla fine della proiezione. Sì, d'accordissimo. Detto questo, vista la tragica settimana, è di sicuro il film migliore della settimana. Per una volta rischia di non essere un complimento, però comunque è il film più godibile. A me è ricordato, per la capacità, come dicevi tu, di sollevare temi interessanti e allo stesso tempo di non saperli chiudere tutti quanti, il Somersby con Richard Gere, dove sostanzialmente c'era un'altra persona che viveva una vita che non amava, che aveva l'occasione, la vittoria alla lotteria, di avere una seconda chance e viverla in maniera completamente diversa. Devo dire che io mi faccio sedurre da attori bravi, carismatici come Colin Firth e Emily Blunt, e finisco per donargli molte cose, perché nobilitano comunque anche film riusciti a metà come questo, che hanno nella sceneggiatura e soprattutto nell'evoluzione di una sceneggiatura che qui dovrebbe accompagnare lo spettatore attraverso vari registri, una grossa fragilità. C'è una grossa piattezza nella narrazione e in qualche modo si viene catapultati in qualcosa che dovrebbe essere invece molto più graduale, molto più penetrare molto di più dentro lo spettatore. Detto questo, ci sono delle cose interessanti, c'è un'estetica comunque ben curata, gli attori sono bravi. Certo è, sono d'accordo con te che soprattutto nell'evoluzione della seconda parte quest'uomo che da squallido, diciamo, riconquista la sua vita, la riconquista al meglio, alla lunga si perde, sia nella regia sia nella sceneggiatura. Quindi è un'occasione persa, però se proprio dovete andare al cinema a vedere un film di questa settimana e non della scorsa, di cui mi permetto, continuo a consigliare Infanzia clandestina, Il mondo di Arthur Newman è sicuramente il film da vedere. E allora siamo riusciti comunque a trovare una proposta, come dire, convincente per tutti, ma noi lo diciamo sempre, questa è una trasmissione che cerca di fare informazione e critica al tempo stesso, cercando di stare in equilibrio fra il popolare e il profondo. Non è facile, però poi i film bisogna sempre vederli, anche quando noi vi diciamo questo, questa carenza, questa cosa, i film vanno sempre visti, è l'unico modo per poi poterli davvero, davvero valutare. Grazie a Boris Sollazzo che ci ha raccontato anche oggi un po' le novità in sala. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi e buon cinema. E come sempre nella quarta parte della Rosa Purpurea raccontiamo invece il cinema da vedere in casa, quello da vedere gratis sul piccolo schermo, magari attraverso i canali e la programmazione delle reti televisive del digitale terrestre. In questo ci facciamo aiutare come ogni settimana dalla redazione di Fil TV, dove ci aspetta Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Giulio, Bernardo Bertolucci, presidente della giuria della 70ª mostra d'arte cinematografica di Venezia, Bernardo Bertolucci, grande regista, e quindi abbiamo voluto scegliere quasi a omaggio una proposta appunto che arriva dai palinsesti della prossima settimana, L'assedio, domenica 8 settembre alle 2:05 di notte su Canale 5. Sì, L'assedio domenica su Canale 5 alle 2:05 è uno dei piccoli film di Bertolucci, piccoli però solo per ragioni produttive. Siamo in un'antica dimora nel cuore di Roma, abbiamo l'incontro tra due solitudini. Lui è un inglese, un pianista, e lei è africana, cameriera in casa del primo, e con un marito in carcere per ragioni politiche. E qui nasce la generosità, la solidarietà e un amore. È un Bertolucci in minore, ma non assolutamente minore, è un film scenograficamente e registicamente esaltante, con sequenze di pura magnificenza poetica, è una sorta di composizione capace veramente di inventare gli spazi, una caratteristica del cinema di Bertolucci che ritornerà prepotentemente ad esempio nell'ultimo Io e Te, con altre due solitudini che si incontrano, ma questa volta in una cantina. E allora, questo per quanto riguarda L'assedio di Bertolucci, domenica 8 settembre 2:05 di notte su Canale 5. E invece Peter Jackson ritorna anche nelle reti italiane su Italia 1 giovedì 12 settembre con il suo Amabili Resti. Amabili Resti, giovedì su Italia 1 alle 23, siamo nel 1973 e Susi, a 14 anni, viene uccisa. Si ritrova in un al di là sospeso dal quale osserva la propria famiglia e il proprio assassino. Peter Jackson adatta un romanzo di Alice Sebold, un bestseller che sembrava impossibile da tradurre, e mette in scena dopo Il Signore degli Anelli Un'altra Terra di Mezzo. È un'indagine post-mortem, questo Amabili Resti, con una ricostruzione d'epoca accuratissima degli anni 70, e una costruzione intelligente e spettacolare dell'aldilà che, insieme a tenero, potente, kitsch, molto kitsch, ma anche molto commovente. È un film poetico e angosciante, una sorta di teen movie che racconta soprattutto di quel che rimane dei defunti nelle emozioni di chi ha subito un lutto. E ricordiamo l'appuntamento allora giovedì 12 settembre alle 23 su Italia 1 con Amabili Resti. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Ciao Franco, e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora andiamo a giocare ancora insieme, perché abbiamo la terza e ultima traccia del film misterioso di oggi. Sei un cadavere? È lui che mi ha salvato la vita. Lui si è preso cura di me. Ho fatto scattare qualcosa in lui e questo deve aver innescato qualcosa in tutti loro e... No, no. Ho fatto scattare qualcosa in me. Papà, no, papà. No, vogliamo aiutare. La Rosa Purpurea, @radio24.it, l'ultima occasione per indovinare di che film si tratta e provare a vincere il Blu-ray di questo film. Settimana prossima vi diremo titolo e vincitore, come facciamo adesso col game della scorsa settimana. Il pericolo è imminente e devo proteggere l'unica cosa senza la quale non vivrei. Sei tu. E le mie armature sono... macchine. Sono parte di me. Una distrazione. Probabile. Si trattava di Iron Man 3, era questo il film con cui abbiamo giocato settimana scorsa, molti hanno indovinato, i più bravi, i più veloci del sabato e della domenica sono stati Antonello Gagliardi di Lucera, provincia di Foggia, e Dario Gonzato di Malo, provincia di Vicenza. Saranno loro a ricevere l'edizione in Blu-ray della Disney di Iron Man, della quale parliamo con il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. E allora, distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment, l'edizione on video del film Paramount è non solo DVD, ma si fregia di ben tre edizioni Blu-ray in alta definizione, una solo 2D oppure 2D e 3D, anche in versione da collezione in metallo. La qualità delle immagini è veramente da riferimento, con ulteriore divertimento visionando la versione tridimensionale con incredibile aumento del livello di coinvolgimento. Traccia audio DTS 6 canali in italiano di eccellente dinamica, da resa cinema l'originale DTS ad alta risoluzione addirittura 8 canali. Sono tanti gli extra, tra cui segnalo il commento al film del regista molto interessante, assieme a uno degli sceneggiatori c'è un cortometraggio inedito sull'agente Carter dell'agenzia segreta SHIELD. Sono due dietro le quinte con focus sulla lavorazione e c'è addirittura un'ampia sezione di scene eliminate. Una decina d'anni fa Stephen Hopkins dirigeva un film su un grande come Peter Sellers, si intitolava Tu chiamami Peter. Sai Joe, credo che oggi non sia un giorno fortunato, non è per niente fortunato, le voci mi dicono di non rischiare. Anch'io sento delle voci dentro di me, Peter, e lo sai che cosa mi dicono? Mi dicono che se non sei sul set entro oggi pomeriggio ti ritroverai con tutte e due le gambe spezzate. Da divertente è seguito commediante radiofonico a divo del cinema The Life and Death of Peter Sellers, questo è il titolo originale del film diretto nel 2004 da Stephen Hopkins, mette in scena la difficile vita dell'indimenticato attore britannico Peter Sellers, mostrandone non solo la notevole carriera artistica ma anche i lati oscuri in ombra, vessato da frustrazioni psicologiche, persino raggirato da un sufficiente medium. Un biopic interessante che tocca quasi tutte le grandi perle cinematografiche dell'attore, escludendone solo alcune come Hollywood Party, notevole il cast, tra cui Geoffrey Rush nel ruolo di Sellers. Da Lucky Red, l'edizione solo DVD, di qualità molto buona, l'audio è Dolby Digital multicanale in italiano e in inglese, è di notevole resa, mentre ricordo che è presente anche una terza traccia, la migliore, in DTS multicanale sempre in italiano. Come extra, una breve galleria di interviste a regista e attori principali e una galleria foto. E invece della scorsa stagione cinematografica, l'ultima proposta di questa settimana, Ruby Sparks. Harry, è pazzesco, hai fatto apparire una donna con la mente! Sì, mamma andrà fuori di testa. Oh, non puoi dirlo a mamma. Perché no? Adora queste cazzate New Dico Age. Dico sul serio. Non puoi dirlo a nessuno, né a mamma, né a Susie, a nessuno. Ma è straordinario, come faccio a non dirlo a nessuno? Harry, mi crederanno pazzo. Che facciamo? Fingiamo che sia la tua ragazza e basta. Chi è la mia ragazza? Sul serio? Perché no? Famoso per un primo lontano romanzo, per cui ancora oggi è stimato e riconosciuto, Calvin trova nei sogni l'ispirazione per il nuovo lavoro, sogni legati in particolare alla giovane Ruby che ne accompagna il sonno e lo spinge a scriverne su carta quasi senza sosta. Allontanato, grazie a lei, lo spauracchio del blocco dello scrittore, il romanziere si troverà ad affrontare una serie di surreali eventi, una volta scoperto che Ruby vive davvero in casa sua. Dagli autori di Little Miss Sunshine un delicato e coinvolgente approccio di fantasia per raccontare di rapporti umani, di quanto ci si possa sentire in diritto di condizionarli, in particolare quelli in cui sono coinvolti i sentimenti profondi. Da 20th Century Fox Home Entertainment, l'edizione è un video, solo DVD in Italia, comunque di ottima qualità d'immagine, audio Dolby Digital multicanale italiano e inglese, sono entrambe tracce di notevole resa. Come extra segnalo tre brevi approfondimenti sulla lavorazione con interventi del cast e immagini dal set. E allora grazie Claudio Poffi, alla prossima settimana con i consigli un video. Ciao, a presto! E siamo arrivati allora alla fine della nostra puntata, le note della sigla ce lo ricordano, io vi ricordo invece la nostra pagina Facebook che è sempre lì ad aspettarvi, cliccate mi piace sulla Rosa Purpurea Radio 24, unitevi alla nostra comunità per stare in contatto tutta la settimana, dirci i vostri pareri sui film che vedete, chiederci quello che volete e interagire con noi, anche scaricando ovviamente la puntata in podcast, cosa che si può fare tranquillamente anche dal nostro sito. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, un appuntamento alla prossima settimana e un saluto da Franco D'Assisti.